A Radio 24, due di denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. La passione si sente. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sciori, sciori, sciorilli tutto l'anno, l'amore camera sti di ritorno. Sciori, sciori. Deborah, buongiorno. Buona giornata, caro mio. Hai un voucher per andare a fare una vacanza in Sicilia? No, ma mi chiedevo tra l'altro perché, come mai aveste deciso con Marco Lombardo, mi immagino, di fare questo passaggio sul folk, che così mi riporta, sì, un po' anche alla mia gioventù, agli anni 70, insomma. Perché Shuri Shuri? Allora, ci sono delle nuove opportunità di investimento che si affacciano sul mercato delle obbligazioni, ma non so se anche noi piccoli risparmiatori potremmo sottoscrivere questi strumenti di investimento. Sono i Sicilia Bond, Mauro, titoli di soggiorno settimanali, titoli obbligazionari, diversificati per territorio e fascia di prezzo, che saranno immessi sul mercato a partire dal prossimo autunno. Potranno essere acquistati per assicurarsi in maniera più che vantaggiosa, dicono le agenzie, per ben 3 anni consecutivi una vacanza settimanale doppia in Sicilia. Chissà se potremo sottoscriverli in banca questi titoli o se verranno collocati diversamente. Sarà un esperimento interessante da seguire, caro Mauro, in un mercato, quello del turismo, che come dire, è in grande difficoltà. Quello obbligazionario naviga a vista con questi tassi di interesse e quindi, insomma, un esperimento originale che sarà il caso magari di seguire. È un po' come il future sul caciocavallo, te lo ricordi? Eh sì, ma infatti mi sembra un pochino un future questo, cioè la sostanza è un investimento per avere la possibilità di fare dei, sì, soggiorni anche negli anni successivi. Lo scopriremo dall'autunno, hai detto, quindi bisogna ricordarsene, esatto, poi di parlarne magari, chissà, per l'ottobre, per il mese del risparmio, quando saremo molto attenti anche a formule innovative di investimento. Comunque, per, esatto, adesso sappiamo che ai possessori di questi Sicilia Bond, che avranno un prezzo stimato su un soggiorno in alta stagione, a questi possessori verrà garantita una seconda settimana aggiuntiva sulla stessa struttura ricettiva, in un periodo però non più di alta stagione. Questo è il meccanismo che per ora si è capito di questi Sicilia Bond. Certo. Maggiori, esatto, informazioni poi più avanti, naturalmente. Ma intanto si può andare in Sicilia anche già da subito, no? Anche quest'estate, sì, non devo aspettare l'autunno. Assolutamente sì, no, peraltro stavo pensando, Mauro, che è probabilmente un modo per incamerare in questo momento un po' di liquidità di cui scarseggiano gli operatori del turismo, come sappiamo, perché le prenotazioni chiaramente vanno un po' al rallentatore. Bisognerà capire se i contagi si fermeranno del tutto quest'estate, se si potrà viaggiare in tranquillità anche in località domestiche, quindi nella fattispecie in Sicilia, e quindi questo è un tema interessante che fa molto bene il paio con il tema che abbiamo deciso di affrontare quest'oggi. E mercoledì parleremo di lavoro, ma di che tipo di lavoro? Di lavoro stagionale, quindi c'entra proprio con il turismo, ad esempio, perché nella nostra sagacia abbiamo pensato di cominciare con questa notizia sui Sicilia Bond, proprio per poi andarvi ad annunciare che parleremo di lavoratori stagionali. L'estate è una stagione di lavoratori stagionali, di lavoratori per brevi periodi, e allora noi ne parleremo, diciamo, dopo il giornale radio del risparmio, tra una decina di minuti, qualcosa di più. Vi ricordo intanto i numeri di telefono: 800 24 0024 per il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms o messaggi WhatsApp. Poi abbiamo anche una novità, oggi c'è un debutto, ma non vogliamo dire niente, sarà nell'ultima parte della trasmissione. Lancio solo questo minimo promo e poi mi taccio, perché vorrei andare, vedo che già il rassicurante Peter Bescapè dall'altra parte del vetro mi fissa, come dire, ma che cosa vorranno fare adesso questi due, l'uno qui, l'altra da casa, ma... bisogna sempre curarli come se fossero sguscianti, come, non, come un Lukaku ad esempio, parlo per me naturalmente perché tu sei agile, agilissima come una gazzella. Allora dietro di lui scorgo anche il vigilante Luca Cremonese, tutto mi sembra ottimamente a posto e con la benedizione di Marco Lombardo da remoto andiamo col giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Senti Mauro, visto che siamo partiti con i Sicilia Bond, sì, ti darei anche un'altra notizia che riguarda il mondo del risparmio. La voglio fare breve, magari la approfondiamo domani, ma la approfondiamo ancora di più la prossima settimana in occasione dell'Investire Informati Digital Roundtable, martedì prossimo dalle 15 all'Auditorium del Sole 24 Ore, un evento che tutti gli ascoltatori potranno seguire collegandosi sul sito di Radio 24 e andandosi a registrare, appunto troverete tutte le informazioni su questa iniziativa. C'è una notizia che riguarda il risparmio gestito, quindi il mondo dei fondi di investimento, che dopo lo shock del coronavirus che ha travolto anche questo mercato, tutto il panorama degli investimenti tra maggio ed aprile, sembra volersi risvegliare e a maggio c'è un ottimo dato perché pare che la raccolta netta dell'industria sia positiva, non pare, è positiva per quasi 5 miliardi e mezzo di euro da circa 2 miliardi del mese precedente e dopo un tracollo dell'industria che aveva visto deflussi da questo comparto per 8,7 miliardi a marzo. Quindi dati positivi, in qualche maniera stanno riposizionandosi i risparmiatori sugli strumenti di investimento collettivo e quindi domani sarà il caso di approfondire questo tema ad Investire Informati nella modalità tradizionale settimanale e poi ci ritorneremo anche la settimana prossima nella tavola rotonda, appunto formato digitale, martedì 30 giugno. E questa è una prima notizia. Per maggiori informazioni, come già vi ha ricordato Deborah, su questo evento di martedì prossimo www.radio24.it, andate nella sezione iniziative speciali, la trovate proprio in home page, nella pagina che si apre digitando quell'indirizzo in alto, quindi è molto facile da raggiungere. Guarda, io vado da un risparmio all'altro perché in questo, in questa mattinata viene anche diffusa, di solito viene accompagnata da un evento anche fisico, ma purtroppo il momento non lo consente, la relazione della COVIP, che è la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. Abbiamo avuto di recente nostro ospite proprio il presidente della COVIP, Mario Padula, che ci ha descritto le necessità di ulteriore intervento anche di educazione finanziaria e previdenziale, perché pare che siamo debolucci anche lì, cara Deborah, parlo per me naturalmente e non per te. No. Allora, la relazione di Mario Padula, che trovate sul sito della COVIP naturalmente, è una relazione che definirei preoccupata, perché il 2019 si è chiuso bene per i fondi pensione, hanno avuto una crescita anche di risorse, un aumento del 10,7% delle risorse rispetto all'anno precedente, ma poi purtroppo è successo, come sappiamo bene, il lockdown, il coronavirus, e c'è la preoccupazione perché si evince dalla relazione di Padula, c'è il timore che nel contesto di maggiore difficoltà economica si riduca sia la propensione all'adesione, questo è un pericolo perché poi naturalmente significa affidarsi solo al primo pilastro che, come sappiamo, ha subito già diverse riduzioni negli importi negli ultimi anni, quindi riduzione della propensione all'adesione e anche addirittura fuoriuscita dal sistema proprio dei fondi pensione, perché ohimè anche i rapporti di lavoro potrebbero avere degli scossoni, già li stanno avendo proprio ad effetto di questo coronavirus. Tutto il dettaglio della relazione, che comunque, come ci ha spiegato il presidente Padula, va vista anche in una prospettiva previdenziale, quindi nell'ordine dei decenni, lo trovate su www.covip.it. Deborah. Volevo segnalare invece un bel lavoro che fa la nostra collega Cristina Casadei sul Sole 24 Ore di oggi, a pagina 30, nelle pagine dedicate al lavoro. Si parla di lavoro in somministrazione, cioè tutto quel lavoro che passa attraverso l'attività delle agenzie per il lavoro, il cui tipico contratto appunto è proprio quello di somministrazione. Chiaramente anche questo mondo ha dovuto un po' riorganizzarsi in questi mesi e molti operatori ce l'hanno raccontato anche ai nostri microfoni. Per esempio, uno dei tanti cambiamenti commenti è stato quello di dover sostenere per tutti i candidati in certe posizioni nelle aziende di cui le agenzie per il lavoro veicolano appunto la domanda, sostenere ad esempio i colloqui di lavoro via web. E quindi Cristina appunto fa un bel punto della situazione intervistando alcuni fra i maggiori player nel nostro paese, cioè i vertici di Manpower, Adecco, Randstad, G Group e Humana. È un settore, quello delle agenzie per il lavoro, che ha archiviato e sta archiviando il primo semestre di quest'anno con un fatturato in calo di circa il 20%, ma sta registrando anche i primi segnali positivi, trainati in particolar modo da alcuni comparti che stanno chiedendo forza lavoro e personale: e-commerce, IT, information technology, pharma ed alimentare. E quindi insomma, ci sono settori interessanti che vale la pena monitorare e per i quali magari presentare anche la propria candidatura. Le agenzie per il lavoro sono pronte con i loro colloqui digitali sul web. Mauro. Chiudiamo con un'anticipazione, una segnalazione per il Sole 24 Ore di domani, perché domani sarà in edicola con il Sole 24 Ore la abituale, perché ogni anno viene presentata, guida alla scelta dell'università. Quindi un fascicolo che è proprio dedicato agli studenti e alle famiglie degli studenti per agevolarli nella scelta del percorso di studio universitario, con tanto di appunto novità per la didattica a distanza. Quest'anno è stata una novità forzata, ma una novità molto importante anche per l'università, anzi direi soprattutto per le università: gli esami, le regole per i fuori sede, le borse di studio, come ottenere anche finanziamenti dalle banche per gli studenti. Insomma, come al solito un lavoro molto completo, che poi da sabato verrà anche ulteriormente rinforzato, perché avremo in collaborazione con Alfa Test in uscita 4 volumi di supporto allo studio per i test d'ingresso. Domani con il Sole 24 Ore la guida all'università. E ora si è fatta una certa, come dicono a Roma, cara Debora, e allora prego, andiamo senza por tempo in mezzo al tema del giorno, cioè dov'è il nuovo lavoro. Dov'è il nuovo lavoro? Allora, diciamo che in tempi normali ce ne sarebbe parecchio al mare, in montagna, in collina, in agriturismo, in questo periodo, un periodo molto vivace per tutto il lavoro stagionale, ma in realtà ogni tipo di stagione porterebbe la sua professionalità, se non fosse che il Covid ha provocato molti problemi, uno dei tanti peraltro, Mauro, e questo è anche il motivo per cui abbiamo scelto oggi di fare questo approfondimento, è che a questa tipologia di lavoratori lo Stato non ha garantito nessun tipo di sostegno, di ammortizzazione. Un tema che si è posto con forza in questo periodo il Ministero del Lavoro, e pare che la ministra Nunzia Catalfo abbia promesso che recupererà in qualche maniera con questa categoria. Con un provvedimento intende a breve erogare almeno un bonus da 600 euro per i mesi in cui questi lavoratori non hanno percepito nulla, quindi marzo, aprile e maggio. Mi pare che al momento su questo punto non sappiamo ancora nulla, ma abbiamo delle promesse. E una categoria di persone molto attente a queste dinamiche, quella dei consulenti del lavoro, ha sollecitato l'intervento in tal senso, e quindi noi li abbiamo appositamente convocati per farci spiegare un po' le loro idee su tutto ciò. Esattamente, e allora diamo il bentornato a Due di Denari a Pasquale Staropoli, che è il responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro. Bentornato a Due di Denari, dottor Staropoli. Grazie, buongiorno. Allora, cara Debora, io ti voglio dire che il lavoro stagionale ha una bellissima storia normativa, ma bellissima, diciamo che è un po' ironico. Sì. Perché, infatti, allora, avremmo dovuto riformarlo qualche anno fa, pochissimi anni fa, ma poi ci si è un po' persi via, insomma non è mai stato adeguato. La sostanza è che facciamo ancora riferimento a delle norme che sono del 1962, dove si parla ad esempio degli spiumatori della tiffa, che adesso sul momento non mi ricordo cos'è, ma è qualcosa che si fa in agricoltura. Ma lanciamo il domandone, che cosa fa lo spiumatore della tiffa? E anche lo sgusciatore. Vediamo di mandorle, perché forse è un po' più facile. Ma adesso non eravamo, esatto, qui per fare dell'ironia, ma per dire, dottor Staropoli, qui c'è già il primo problema, perché mancandoci una identificazione normativa, diciamo, attuale, anche disporre una erogazione di un bonus, una provvidenza qualsiasi, un'indennità, forse è più complicato, o no? Sì, sicuramente si combinano in questo caso due problemi. Uno è quello quello che cui accennava lei all'inizio, che ci trasciniamo ormai da tempo, purtroppo, che questo, in particolare per i lavoratori stagionali, questa definizione che appunto si risale fino al 1962 e poi a un decreto attuativo, ma di un anno dopo, del 63, che fissa in maniera tassativa cos'è il lavoro stagionale con queste categorie, cioè, che ormai sono sicuramente anacronistiche, ma che però purtroppo sono tassative, e quando si parla di lavoro stagionale ad oggi l'unico riferimento normativo purtroppo è quello lì. E dall'altro il problema nuovo che abbiamo segnalato più volte come Fondazione Studi e anche in questa trasmissione qualche volta, del fatto che ci si è adagiati sugli strumenti ordinari che ci sono, come gli ammortizzatori sociali, che ancora una volta si sono rivelati inadeguati. Ora abbiamo la promessa del Ministro che appunto conferma l'incompletezza della tutela, perché al netto degli sgusciatori di mandorle o degli spiumatori della tifa, che mi guardo bene anche dal tentare di comprendere di che si tratta, di fatto, ecco, c'è poco da ridere, perché un'amplissima categoria di lavoratori in un paese come il nostro, con una significativa vocazione al turismo e quindi alla stagionalità, è rimasta effettivamente tagliata fuori, perché fuori da questa catalogazione, perché all'interno di questa catalogazione del 63 nel concetto di stagionale rientravano solo i lavoratori delle aziende turistiche, ma solo di quelle realtà turistiche che secondo quella definizione avevano una sospensione di 70 giorni continuativi o 120 discontinui. È chiaro che è molto riduttivo come concetto di lavoratore stagionale e sicuramente non risponde a quello che è la stagionalità, le esigenze effettive del mondo moderno, del mondo che conosciamo. Certo. Mm-hmm. Allora io inviterei solamente i lavoratori, i lavoratori anche, gli ascoltatori ad intervenire sull'argomento. Tali, verrebbe da dire, sì, esatto, lavoratori o aspiranti tali. Prego, non aspiranti, Deborah. Spiumatori della tifa, che è interessante, ma insomma di lavoro stagionale in questo periodo parliamo, perché chiaramente stanno riaprendo, sono riaperti con difficoltà e distanziamento gli stabilimenti balneari, tutte le attività turistiche in montagna, laddove appunto queste zone si possono frequentare e praticare senza assembramenti. E allora io vorrei che ci raccontassero anche i lavoratori che approfittano di queste opportunità stagionali, che tipo di contratto hanno avuto proposto naturalmente dal datore di lavoro, e quindi come si stanno organizzando. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure utilizzate il 349 238 6666 per i vostri messaggi anche su WhatsApp. Mauro. Sì, io volevo approfondire questa, diciamo, ipotesi alternativa di tutele che si potrebbero offrire, dottor Staropoli, perché qui si sorgono, credo, due problemi a questo punto. Da una parte, quale tipo di contratto utilizzare per il lavoratore stagionale, che ancora serve appunto nel turismo, negli stabilimenti balneari, come era l'esempio che faceva Deborah. Dall'altra parte invece, quale tutela, quale indennità si potrebbe ricorrere. Allora, appunto, ad esempio penso alla NASPI. Non so da dove vuole cominciare, dottor Staropoli. Allora, guardi, qui il problema non è, cioè questo è un momento ulteriore appunto della scelta della indennità alla quale ricorrere, scelta di politica legislativa, decide il governo, se ne valuta e se ne verifica l'opportunità o l'adeguatezza. Qui il problema a monte è che molti lavoratori di fatto stagionali, e quindi spesso anche nelle identiche condizioni, alcuni hanno ricevuto l'indennità, quella di 600 euro per marzo e aprile, che diventerà di 1000 per maggio e mesi seguenti, altri nelle medesime condizioni sostanziali non hanno ricevuto nulla, soltanto perché appunto il datore di lavoro, l'attività che da questi lavoratori veniva svolta, pur, ripetiamo, di fatto stagionale, non era possibile inquadrarla in questo decreto dal 63, sono oltre 57 anni fa, e quindi sono rimasti tagliati fuori. L'intervento necessario e urgente, mi auguro, così come dalla promessa del Ministro, è proprio di ampliare questa sfera e di evitare che all'interno del riconoscimento di queste indennità ci siano solo gli stagionali del 63, ma siano considerati anche gli stagionali del nuovo secolo, perché altrimenti, ripeto, poi i dettagli ma si possono definire in qualsiasi momento, ma nell'immediato è urgente recuperare tutte queste persone che sono poi tagliate fuori da qualsiasi tipo di soccorso in questo periodo di pandemia. Debora. Sono andata Mauro a cercare alcuni dei lavori stagionali più curiosi, ovviamente noi questa mattina ci stiamo anche sorridendo un po' su, ma in realtà io guarderei con grandissimo rispetto a tutte queste professionalità che ovviamente si prestano a lavorare in certi momenti dell'anno in cui magari tanti altri non lo fanno volentieri. Chi si occupa di spalatura della neve, per esempio, ed è un mestiere che viene praticato ovviamente nei mesi invernali nelle aree soggette a nevicate, è chiaro che fa un lavoro che magari noi facciamo un po' meno volentieri. Ho trovato anche chi si occupa di lavatura della paglia per cappelli, sulla spumatura della tifa, ci abbiamo riso, ma in realtà la tifa è una pianta diffusa in diverse regioni, soprattutto in Emilia Romagna, in zone umide con acque stagnanti come le paludi, e quindi chi si va ad occupare di questo settore lavora anche in condizioni, come dire, ambientali non proprio vantaggiosi. Tutto questo per arrivarle a chiedere, Staropoli, siccome si parla di lavoratori che possono operare in settori estremamente diversificati, questo significa che ad ognuno viene riservato e destinato una tipologia di contratto a seconda del settore, non lo so, economico, produttivo, merceologico in cui si capita di lavorare, oppure c'è, come dire, un cappello uniforme che vale per tutti? No, ecco, questo è il problema. Il contratto si può, il contratto individuale al singolo lavoratore può essere gestito e stipulato e concordato con le modalità e con le tipologie che si richiedono. Il problema, ripeto, è appunto, come diceva lei, questa sorta di cappello a monte, angusto, stretto, se vogliamo, che è determinato da questo decreto del 63. Cioè, a prescindere dalla forma e dal tipo di contratto, soltanto chi rientra in una di queste tipologie di lavorazioni viene considerato lavoratore stagionale. Tutti quelli che non lo sono, per questa considerazione appunto di quasi 60 anni fa, rimangono fuori dalle tutele, nello specifico contro il Covid, perché purtroppo la norma che fa riferimento ai lavoratori stagionali, nel nostro impianto il lavoratore stagionale è soltanto quello lì. Ripeto, non è tanto un problema di forma di contratto, ma proprio di qualificazione del concetto di lavoratore stagionale. È necessario un passo in avanti di modernità e di sostanza, cioè qualificare il concetto di stagionalità della prestazione lavorativa e staccarlo dalla rigidità di questa classificazione che appunto sì, fa sorridere, per carità, gli spalatori della neve, ci mancherebbe, lavorano in condizioni disagiate, ma creare un meccanismo appunto che non escluda chi non rientra in quella tipologia tipizzata. Perché vedi, Debora, qui il problema è che, come dicono i giuristi, l'elenco è tassativo, quell'elenco lì del 63, esatto. Così come è tassativo adesso che tu ci aggiorni sui mercati finanziari, le borse. Prego. Data Brief. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Due di denari. Un investimento per vacanze future? Ma dai, lasciamo perdere, va, ciao. Vabbè, insomma, l'ottimismo, come diceva quello là, è un po' il profumo della vita o qualcosa del genere. Sì. Beh, diciamo che l'ascoltatore non sottoscriverà il Sicilia Bond, ecco, da quello che capiamo. E vabbè, pazienza. Va bene, ma gli auguriamo comunque di fare le vacanze, perché mi sembrerebbe così anche un po' troppo negativo. Se lo augurerà sicuramente, che molti ascoltatori facciano le vacanze, il presidente di Asso Balneari, che ci ha raggiunto telefonicamente, Fabrizio Licordari. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno e grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Dottor Licordari, Presidente Licordari, noi abbiamo cominciato con Pasquale Staropoli, che è responsabile della scuola di alta formazione di consulente del lavoro, ricordando il problemi normativi che stanno, diciamo, un po' affliggendo, ma da molti anni, una corretta razionalizzazione, catalogazione dei lavori stagionali. Però adesso con lei, in quanto presidente di Assobalneari, vorremmo capire come si presenta questa difficilissima stagione. Mi sento già di anticipare un giudizio per quanto riguarda appunto le vacanze al mare. Ci sono limiti che sono molto stringenti per quanto riguarda i gestori degli stabilimenti. Immagino anche che per il personale, per avere delle risorse, le persone che lavorano in questi stabilimenti, insomma, non so se in questo momento la richiesta sta andando bene, non sta andando bene, c'è molta offerta oppure no. Ma guardi, io non sono un tecnico e non mi curo e non ho la conoscenza e la capacità neanche di giudizio sugli aspetti di natura normativa, e voi avete fatto molto bene a interagire con chi di queste cose invece ne ha fatto una professione. Io sono un imprenditore e so quali sono le difficoltà sul campo della quotidianità, i problemi che incontriamo noi come imprenditori nel nostro comparto balneare turistico. Abbiamo già da qualche anno difficoltà nel reperimento del personale stagionale. Questo è un dato di fatto, e tra l'altro la vostra emittente ha ripreso nel passato anche con rubriche ad hoc, facendo un po' il punto della situazione. Anche oggi, con la questione del Covid-19, c'è meno passaggio di persone che chiedono comunque di poter lavorare, di essere impiegati nel settore. Noi presumiamo, nonostante il pensiero che questa cosa stia diminuendo, si stia superando, eccetera, e che ci sia comunque ancora da parte di molti il timore che poi a lavorare a contatto con il pubblico si possa comunque essere sottoposti a maggiori rischi. Questo è un aspetto. E poi io direi anche che comunque è il fatto di poter offrire un lavoro non con un contratto a tempo indeterminato, ma a tempo determinato, diventa anche un po' meno appetibile con chi cerca di inserirsi nel mercato del lavoro. Qui credo che per dare maggiori possibilità e incentivi alle persone che vogliono avvicinarsi al comparto del turismo siano necessari dei provvedimenti e degli ad hoc, studiati ad hoc dal Ministero del Lavoro, proprio per dare magari più incentivo a cercare questo tipo di impiego, di occupazione. Per quel che riguarda noi imprenditori, perché poi c'è l'altra faccia della medaglia, cioè da una parte abbiamo gli operai, tuttofare, i baristi, gli addetti di cucina, i camerieri, i bagnini di spiaggia, i bagnini di salvataggio. Ecco, tutta questa fascia di personale hanno una problematica, ma dall'altra parte della barricata ci siamo noi imprenditori. Ecco, non sono stati ad oggi presi provvedimenti che possano, voglio dire, venire incontro alle nostre esigenze anche per fronteggiare questa situazione di emergenza. Guardi, mi è caro dire una cosa e mi permetta di fare questa considerazione. Noi è dal 3 marzo che siamo coscienti delle difficoltà al quale saremmo poi venuti incontro con l'approssimarsi della stagione estiva, e per quello che noi avevamo chiesto dal 3 marzo un contatto, un confronto, la possibilità di interagire con il governo, e poi da quando è stata nominata anche la task force, per poter spiegare quali sono le problematiche del nostro comparto, del nostro settore, degli di poter mettere a fuoco tutte le questioni che poi sarebbero poi riscontrate nel momento in cui ci sarebbe stata l'apertura. Noi non abbiamo avuto un riscontro, non siamo stati chiamati, non abbiamo avuto la possibilità di interagire, di poter dire quali erano le nostre problematiche, e abbiamo iniziato a lavorare al buio grazie all'intervento delle regioni, che con il loro coordinamento hanno espresso un documento unitario, mettendo all'interno delle linee guida, ma facendo comunque un salto in avanti rispetto a quelli che erano stati i tempi del governo, producendo delle misure, producendo delle linee guida che poi il governo, visto che si è trovato un po', mi passi l'espressione, la pappa pronta con il lavoro fatto dalle regioni, lo ha fatto proprio. Esatto, nell'ultimo DPCM attualmente in vigore. Debora, c'è un ascoltatore che voleva segnalare così, le difficoltà del figlio, se capisco bene dal messaggio che ci mandano dal centralino. Angelo ci ha chiamato dalla provincia di Latina. Buongiorno Angelo. Latina, sì. Buongiorno, mi sente? Forte e chiaro Angelo. Grazie, buongiorno. Allora, io conosco un titolare di un ristorante, no? E mi ha detto, vai all'istituto, perché mio figlio frequenta l'istituto alberghiero di Latina, il Borgo Piave. Sì. Ti rilasciano un certificato, non so che cosa rilasciano la scuola, l'istituto. No, no. Allora io stamattina sono andato, ha detto ci hanno tutto bloccato da parte dello Stato perché per il coronavirus e così. Allora, scusi Angelo, non ho capito, chi deve rilasciare l'attestato? L'istituto? La scuola? La scuola, sì. La scuola. Però adesso la scuola non può farlo perché col Covid, capito? Sì. Allora, io voglio sapere da voi, perché siete esperti, che cosa, per farlo prendere da questo titolare del ristorante, che cosa ne posso fare per questo attestato prendere? Oppure no? Pazzesco. Dovremmo aver compreso la domanda. Staropoli, riusciamo a capire da queste indicazioni di Angelo? È ovvio che sono situazioni che andrebbero poi valutate nel dettaglio, avendo anche magari delle carte, delle informazioni maggiori. Infatti, quindi il ristorante per l'assunzione richiede un certificato da parte della scuola, ma la scuola non glielo rilascia per il Covid. Sì, questa sembra essere il punto critico dove tutto si impianta. Sì, ma oddio, che non possa essere rilasciato, appunto, andrebbe visto nel dettaglio, ma che non possa essere rilasciato neppure un certificato dalla scuola, mi con sembra strano, magari infatti, esatto. Con una mail, con qualsiasi, cioè la veicolazione della documentazione non è stata sospesa. Poi bisogna capire in concreto quale sia l'esigenza, però magari insista un po' di più con la scuola. Angelo, magari se vuole possiamo scriverci. Provare a sentire, esatto, primo, e poi Mauro magari possiamo chiedere anche a Licordari, lui dice è un imprenditore e chissà magari se nella sua attività ha fatto richiesta qualche volta di personale che arriva dalle scuole alberghiere. Licordari, vi serve effettivamente questo certificato nel caso in cui vogliate assumere temporaneamente, appunto a livello stagionale, un giovane che arriva dalla scuola alberghiera? Le risulta? Nel nostro comparto, perché che sappia io, non abbiamo mai richiesto certificazioni o attestazioni, anche perché andiamo anche un po' sulla buona fede, nel senso che si presenta un ragazzo per lavorare, ci dice che ha frequentato la scuola alberghiera, si mette a lavorare e ci rendiamo immediatamente conto se ha la capacità di poter, non so, stare in un banco bar o piuttosto servire in una sala di un ristorante o aiutare in cucina. Ci si rende immediatamente conto se uno che sta raccontando una bugia, che è stato alla scuola alberghiera oppure non ha fatto nulla. Certo. Poi ci sarà stata un'incomprensione qui, chissà, bisognerà capire effettivamente. Credo anch'io. Allora, la nostra email. A meno che email... non sia stato Mauro, prego, stavo pensando un locale che, non so, avesse già un contatto con questa scuola alberghiera per consentire di fare esperienza stagionale ai ragazzi che arrivano da qua, e magari c'era un accordo pregresso che in questo momento non può essere rispettato, forse è questo l'ostacolo, ma qua siamo sempre sull'onda dell'immaginazione nostra, che è sempre molto fervida, quella dei giornalisti, e quindi così abbiamo fatto solo un'ipotesi. Avendo una casella di posta elettronica, io la ricordo, due di denari, è scritto tutto con le lettere, due di denari, @radio24.it. Adesso ci fermiamo un istante perché dobbiamo sentire come va la viabilità, ma poi abbiamo una novità del mercoledì. E allora, un attimo, il traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. 2 di denari. Buongiorno, conosco bene il mondo dei lavori stagionali e vorrei dire a quell'imprenditore che sta parlando che al di là delle difficoltà di questo periodo legate al Covid, riguardo il fatto che fanno sempre più fatica a trovare disponibilità di persone, vorrei che si facessero delle domande e si dessero delle risposte. Quanto sono pagate queste persone? Quante ore devono lavorare? Io conosco persone che si facevano luglio e agosto senza un giorno di riposo, ad esempio, lavorando dalla mattina alla sera, e poi qualche ferie a settembre quando finiva il periodo del clou, diciamo, delle vacanze. Non è proprio come viene raccontata, ecco. Dovreste intervistare qualche lavoratore stagionale per capire meglio e nell'insieme le problematiche, i problemi dei lavori stagionali. Eh sì, Mauro, effettivamente questa cosa che ha detto Licordari all'inizio mi aveva molto colpito, il fatto che quest'anno più che mai si fa fatica a reperire personale, anche se Licordari diceva appunto molti rifiutano delle opportunità perché hanno paura del contagio e quindi temono magari che le aziende non adottino tutte le misure di sicurezza per il distanziamento e quant'altro. Sicuramente ha anche ragione il nostro ascoltatore, ci saranno anche delle sacche di sfruttamento e quindi è un tema molto delicato e magari in questa confezione lo riporteremo in un'altra occasione a Due di Denari, lo promettiamo al nostro ascoltatore, ma ci piacerebbe poi sentire anche Licordari che cosa ne pensa, di chi pensa di loro in questo modo. Ma io sono sicura, Mauro, che da tutto questo ne usciremo migliori. Non lo so, se tu sei sicura così, io penso che da tutto questo sono uscito intanto appesantito, perché il lockdown mi ha fatto male alla linea proprio, non alla telefonica. Sì, ma hai il girovita difettoso? Ho il girovita, sì, un pochino rilassato, per dir così. Ma perché mi dici questa cosa qui? Perché guarda, questa è una bella piattaforma che si è inventato ed è la seconda invenzione della sua seconda vita professionale, un collega giornalista che io voglio presentarti, perché abbiamo deciso di farci accompagnare in questi mercoledì del lavoro un po' per tutta l'estate, anche se vogliamo un pochino per alleggerire un po' questa pesantezza che abbiamo da diversi mesi a questa parte, quindi vorrei qualcuno che ci supportasse raccontandoci delle belle storie di chi si è reinventato e chi adesso ha necessità di farlo per uscire fuori da questi problemi del Covid, ovviamente problemi che attanagliano soprattutto il mercato del lavoro. Allora io ti voglio presentare Roberto Bonzio. Caro Mauro, Roberto, benvenuto e grazie. Buona giornata Deborah, grazie a te Mauro, mi fa piacere tornare per l'ennesima volta a Radio 24. A Radio 24, progetto. Infatti, sì. Esatto, so che ti conoscono molto bene i colleghi Maria Piera Ceci, Sergio Nava. Allora, Roberto Bonzio, caro Mauro, è un collega che qualche anno fa lavorava in una grande agenzia internazionale Reuters, dopodiché ha deciso di fare un'esperienza nella Silicon Valley portando tutta la sua famiglia. Per quell'occasione si è inventato questo progetto che si chiama Italiani di Frontiera e quindi ha scovato in questa zona fantastica di San Francisco tutti gli italiani che in qualche maniera in quella zona avevano avuto successo. Adesso è tempo, Roberto, di inventarsi invece un'altra storia e tu hai lanciato questa piattaforma che si chiama proprio Ne usciremo migliori. Spiegami un po' che collegamento hai trovato con la nostra trasmissione di stamattina dedicata al lavoro stagionale. Beh, intanto tu hai parlato di reinventarsi, in qualche modo Italiani di Frontiera è diventato un lavoro perché attraverso storytelling, spettacoli in Italia e viaggi portando imprenditori professionisti di ogni settore a conoscere gli italiani in Silicon Valley, ho creato un modello di business su questo e, come puoi immaginare, per diversi mesi eventi, spettacoli e viaggi, dimentichiamoci. Contemporaneamente Italiani di Frontiera ha creato una fantastica community di innovatori sparsi non solo in Italia o Silicon Valley, ma sparsi per il mondo. Allora, quando è successo questo shock che stiamo vivendo, perché parliamo anche di uno shock culturale e non soltanto di un'emergenza sanitaria, ho deciso di interpellare questa community dicendo: ok, raccontate come avete vissuto, come state vivendo questa esperienza, cosa cambierà nella vostra vita e soprattutto quali opportunità positive possono uscire da un cambiamento di questo genere. Tieni presente che da anni con Italiani di Frontiera io continuo a dire che il talento italiano è qualcosa di straordinario, che all'estero spesso esplode per mancanza di ostacoli culturali che invece lo frenano in Italia. Cioè, servirebbe una rivoluzione culturale per liberarsi di questi ostacoli. Bene, quella che stiamo vivendo in qualche modo può essere anche una rivoluzione culturale. Ho cercato due storie che in qualche modo si collegano, avete parlato di un sacco di argomenti, si collegano però uno degli aspetti che forse è il turismo e l'ambiente, e in qualche modo possono dare una suggestione sul ricapire chi siamo, l'identità nostra come persone, ma anche come utenti di servizi turistici, non solo, e anche come consumatori. Sono persone che hanno contribuito quindi a questa piattaforma che ho realizzato grazie ad una partnership con la startup Sistemivo. L'indirizzo di Italiani Frontiere è italianifrontiere.com, di questa piattaforma è italianifrontiere.eu. Parto da Manuel Camia, che è un giovane filmmaker che ha preso un sacco di premi in Italia e all'estero con un bellissimo cortometraggio, Plastic River, un ragazzo che gira col kayak a raccogliere plastica nei fiumi. Bellissimo come immagini, come impatto ambientale. Lui comincia a lavorare adesso un nuovo documentario sui ghiacciai quando succede questo lockdown. È una cosa drammatica, i rifugi chiudono e organizzare delle spedizioni per fare riprese sui ghiacciai diventa quasi impossibile. Contemporaneamente però si rende conto di una grande opportunità. C'è la possibilità di fare analisi sui ghiacciai, che è uno dei temi che loro trattano, cioè quindi un'analisi approfondita dell'ambiente in condizioni che erano impensabili, cioè praticamente senza nessun impatto umano, perché per settimane, per mesi le persone non ci possono andare. Quindi in qualche modo il grande problema diventa anche un'opportunità, ma da tutto questo è chiaro che lui dice si esce con una diversa e più profonda consapevolezza del nostro rapporto con l'ambiente. Lo collego alla Abbiamo poco storia. Meno di un minuto, Roberto, esatto, vai alla seconda storia. La seconda storia è Luisa Triani, che invece è una tour operator nella Lapponia svedese. La situazione forse più esasperata, a portare persone in un posto così lontano e così diverso dal nostro. Anche lei si trova ovviamente con questo lockdown, improvvisamente chiudono i voli eccetera, ma adesso si stanno riaprendo. Cosa ha fatto lei però nel frattempo? Ha imparato che raccontare l'ambiente si collega anche al fatto di sapere emozionare raccontando storie. Lei aveva creato un vero personaggio sul Husky che lo ha accompagnato per anni nel suo viaggio. Cosa ci insegna tutto questo? Che c'è una nuova consapevolezza dalla quale noi usciamo da questa esperienza, anche nel rapporto con l'ambiente. Questo può diventare anche un motivo competitivo. Vuol dire che chi vende una località adesso non vende solo la località, ma anche il rapporto che quella località ha con l'ambiente, con rispetto ambientale. Questo può, per esempio, privilegiare anche uno stabilimento balneare rispetto all'altro, ma questo è legato alla nostra stessa identità. Certo. Grazie Roberto Bonzio. Abbiamo però esaurito.